Agorà in onda. Agorà in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri. Si aspetta per anni di andare in pensione, ma arriva quel giorno e ti assale un pensiero. Vorresti cambiare l'ambito traguardo, con qualche anno in meno, ma no, non si può. Oggi ti ho fatto una bella sorpresa, dai. Oggi entriamo al ritmo di valzer. Abbiamo proprio preso quello giusto, il valzer dei pensionati, perché oggi parliamo proprio di pensione, la pensione e i diversi trattamenti in materia previdenziale. Lo facciamo anche con la signora Sonia Frega, che abbiamo in diretta telefonica. Buongiorno Sonia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno Sonia, estendo anch'io i saluti a te e a tutta l'organizzazione che rappresenti. Infatti sì, tu grazie, sei responsabile direttrice del patronato Inca CGL Roma Est Valle dell'Aniene, sì. Quindi grazie, sì, per aver accettato il nostro invito a parlare nella trasmissione Agora in Onda di un tema molto sentito, che è quello delle pensioni. Avevamo, sì, promesso a inizio anno di affrontare, di fare un focus anche sulle pensioni, e oggi iniziamo con te questo percorso e ci illustrerai, ci guiderai in questo ad illustrarci la panoramica su quello che è l'aspetto pensionistico. Stefano, il nostro conduttore, ci ha omaggiato entrando in trasmissione con questo valzer, e quindi iniziamo la trasmissione proprio sintonizzandoci già, vero Stefano? Io credo che sia proprio così, no? Il valzer dei pensionati, giusto Sonia? Cioè la musica è questa, poi dopo bisogna vedere se è giusto. Come inizia la canzone, uno aspetta tanto per andare in pensione e poi cosa succede? Ecco, e poi cosa succede? Questo lo chiediamo a te Sonia, perché ecco, prima di lasciarti la parola, rimane tutto un valzer oppure c'è qualcosa di diverso? No, sicuramente rimane qualcosa di diverso, sperando ecco che con l'allungamento dell'aspettativa di vita i pensionati possano godere possano godere di questo trattamento. Il problema oggi è quello che dobbiamo analizzare, è come si arriva alla pensione, certo. Esatto, perché dal 2011 con il cosiddetto decreto Salva Italia, il decreto legge 211 convertito poi in legge, è stata introdotta nel nostro ordinamento quella che notoriamente viene chiamata legge Fornero, dal nome del ministro che ha proposto questa riforma della previdenza, certo. Che ha proposto questa riforma e che ha alzato l'età pensionabile, sulla quale anche il dibattito politico attuale in vista delle prossime elezioni ha già fatto accentrato una parte del discorso. Forse, aggiungo io, questa è una considerazione personale, dovrebbero chi fa proposte di abolizione dovrebbe vedere soprattutto quanto costa abolire la legge Fornero, ma oggi in questa sede invece insieme a te vorremmo chiarire agli ascoltatori che cosa prevede questa legge e soprattutto che cosa cambia rispetto allo scenario dei vari trattamenti pensionistici che esistono nel nostro ordinamento. E quindi, prima della pausa pubblicitaria, ti chiedo Sonia di farci una panoramica sui sistemi previdenziali italiani, e quindi lascio a te la parola per illustrare ai nostri ascoltatori come funziona in Italia il nostro trattamento pensionistico. Certo. Allora, innanzitutto ritengo utile sottolineare che il sistema previdenziale ha la finalità di garantire al lavoratore un tenore di vita adeguato anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa e di tutelarlo attraverso le assicurazioni sociali e in particolari situazioni di necessità, quali per esempio la malattia, l'invalidità, la disoccupazione involontaria. Quindi possiamo dire che rappresenta l'insieme delle regole che disciplinano il diritto alle prestazioni pensionistiche, che viene finanziato attraverso il cosiddetto sistema ripartizione, cioè oggi i contributi versati dai lavoratori attivi vengono utilizzati per pagare le pensioni attuali. Questo vuol dire ovviamente che per avere il giusto equilibrio finanziario il flusso delle entrate, quindi dei contributi, deve corrispondere a quello delle uscite in termini di pensioni, e questa è, diciamo, la problematica previdenziale più grande, insomma, da risolvere. Scusami, quindi per fare questo saldo tra entrate e uscite deve esserci un bilanciamento, appunto. Esatto. E quindi questo incide sui vari sistemi previdenziali, retributivo e contributivo? Certo. Allora, intanto in Italia esistono due sistemi previdenziali, quello retributivo, come accennavi, e poi in conseguenza della riforma Dini del 95 che poi l'ha istituito, quello contributivo. Noi per individuare il sistema previdenziale a cui apparteniamo dobbiamo intanto verificare in che anno si colloca il primo contributo versato. Infatti il sistema retributivo viene applicato a chi ha almeno un contributo alla data del 31 dicembre 95. Questa è una data a cui dobbiamo fare sempre riferimento. Quindi, scusami, la data del 95 con la cosiddetta riforma Dini ha introdotto il sistema contributivo, esatto. Mentre in precedenza c'era il sistema retributivo che era sganciato dai contributi versati, giusto? Esatto, si prendevano a riferimento in linea generale le retribuzioni del lavoratore, mentre col sistema contributivo, ai fini del calcolo, si prendono invece in considerazione i contributi versati. Il regime attuale dopo il 95. Esatto, dal 1 gennaio 96, quindi tutti coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa dal 1 gennaio 96 sono destinatari di un sistema contributivo. Esatto. Quindi in questo primo focus abbiamo distinto tra pensione, tra sistema retributivo, previdenziale, retributivo e contributivo, quindi mettendo come linea di demarcazione il 1995, il 31 dicembre 95, 31 esatto. dicembre 95, tra i due sistemi. Quindi ecco, questo è il primo punto per far capire ai nostri ascoltatori, che magari chi è in procinto di andare in pensione, beato lui, aggiungo, esatto. Saprà sicuramente, però è giusto iniziare a ripetere queste cose, perché magari così facciamo informazione corretta su quello che sono i sistemi attualmente vigenti. Quindi su questo continuiamo, per cui esistono questa doppia forma previdenziale, e quindi in base al sistema a cui si appartiene sono richiesti specifici requisiti, no? Sì, sono requisiti diversi che incidono sia sul diritto che sulla misura della pensione. Ad esempio, per fare, diciamo, un piccolo esempio per chiarire a tutti quanti, nel sistema retributivo, ad eccezione di alcune situazioni in cui ancora sono sufficienti 15 anni di contributi, l'anzianità minima richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia è di 20 anni, mentre nel sistema contributivo si può avere il diritto di andare in pensione a determinate condizioni anche con 5 anni. E c'è anche una differenza sull'età anagrafica. Per esempio, già nel sistema contributivo è prevista l'età di 70 anni e 7 mesi, mentre nel sistema retributivo, diciamo, ad oggi l'età è di 66 anni e 7 mesi. Ecco perché è importante subito distinguere se si fa parte di un sistema o l'altro, perché sappiamo che vanno applicate delle regole diverse per poter accedere al pensionamento. Allora, Sonia, scusami, ma ho una domanda da farti da parte di un ascoltatore. Paolo di Valmontone ci chiede: so che i patronati stanno facendo la richiesta all'INPS per l'adeguamento delle pensioni di somme spettanti ma mai retribuite. Perché l'INPS non lo fa in automatico, e chi non sa di fare richiesta perde i soldi dell'adeguamento che gli spetta? Ma l'adeguamento, diciamo, la perequazione automatica, intanto dal 1 gennaio di quest'anno, del 2018, è stata rimessa la perequazione delle pensioni. Perché era stata bloccata, diciamo, nei due anni precedenti, viene però applicata a seconda delle fasce di reddito che uno ha. Quindi sono state fatte, c'è stata una sentenza nel 2015 che doveva, insomma, regolamentare diciamo queste fasce. Poi di fatto invece è stato emanato un decreto che non ha, diciamo, seguito le linee indicate dalla sentenza. Per questo ci sono state, diciamo, dei ricorsi, sono stati mandati all'INPS, e noi adesso siamo in causa, perché purtroppo sono situazioni che dobbiamo risolvere solamente attraverso le vie giudiziarie. Bene, allora guarda, facciamo una cosa, Sonia, facciamo una pausa pubblicitaria, resta in linea con noi, tra poco torneremo in diretta e naturalmente parleremo di altri, anche con altri ascoltatori, perché c'è già un'altra domanda che ci hanno posto, e torneremo in diretta. Resta lì, mi raccomando. Va bene. A dopo. Okay. Stamattina è così, andiamo con il valzer stamattina. Allora Sonia, buongiorno, eccoci qua di nuovo in diretta. Mi senti Sonia? Sì, sì, ti sento. Eccoci qua. Allora stamattina niente, ho invitato Marco a ballare un valzer, non vuole ballare, non c'è niente non da fare. Non sono un grande ballerino, devo dire, però con questo noi iniziamo a ritmo di valzer anche la seconda parte della trasmissione. Stefano c'ha la canzone dei girasoli, il valzer dei pensionati, quindi diamo anche il nome dei coloro i quali hanno realizzato questo vedi che però questa canzone. Tutto porta alla pensione, anche il girasole, no? Esatto. Beh, è tutta una cosa, che scherziamo. Beh, infatti il girasole gira, quindi arriva poi a una fase di scherzi a parte, no? Rientriamo sul tema odierno, finalmente anche su Agora in Onda stiamo parlando di pensioni e lo facciamo insieme a te Sonia, ripeto sei la direttrice del patronato Inca CGL Roma Est Valle dell'Aniene, quindi adesso rientriamo sul tema e ti pongo una domanda proprio relativa alla cosiddetta legge Fornero, no? Quindi quali sono le modifiche sostanziali imposte dalla legge Fornero sulle pensioni di vecchiaia e anzianità? Sì, allora guarda, intanto una delle prime modifiche sostanziali riguarda ai fini del calcolo della pensione l'introduzione del pro quota contributivo per tutti a decorrere dal 1 gennaio 2012, che è rivolto in modo particolare a tutti i lavoratori che hanno almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 95, quindi sono destinatari di un metodo di calcolo retributivo che, come accennavamo prima, è un calcolo basato sulle retribuzioni percepite. E anche per loro quindi la quota di pensione riferita dal 2012 alla cessazione sarà calcolata con il metodo contributivo, che nella maggior parte dei casi è un po' più penalizzante rispetto all'altro. E inoltre con la legge Monti Fornero sono stati introdotti a decorrere dal 1 gennaio 2012 nuovi requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata. E allora, diciamo che ad oggi si può andare in pensione con l'età di 20 anni, parliamo di pensioni di vecchiaia, quindi quella legata più che altro al raggiungimento dell'età anagrafica, 20 anni di lavoro ma con una diciamo con un'età anagrafica più alta rispetto a quella che era prevista precedentemente. Ad oggi infatti, da quest'anno, dal 1 gennaio 2018, tutti quanti i lavoratori, sia privati che pubblici, parasubordinati, potranno accedere al pensionamento all'età di 66 anni e 7 mesi. Prima invece si avevano dei requisiti diversi, perché erano richiesti nel 2011 per esempio 60 anni per le donne del settore privato e 61 per quelle pubbliche. Voi pensate che le donne lavoratrici del settore pubblico sono passate dai 61 anni ai 66 nel 2012, quindi c'è stato uno stacco abbastanza evidente. Quindi la modifica più importante ha riguardato l'innalzamento dell'età pensionabile, lo sentiamo spesso nelle trasmissioni nazionali parlare sempre di legge Fornero e dell'innalzamento dell'età pensionabile, quindi anche tu hai descritto la pensione di vecchiaia, perché abbiamo due tipi di pensioni, no? la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata adesso si chiama, tra l'altro. Ok, quindi la pensione anticipata, come dicevi tu, prevede un tempo minimo di versamento di contributi pari a 20 anni di lavoro. Di vecchiaia, di 20 anni. Di 20 anni, sì, quindi di 20 anni di lavoro. Poi bisogna aspettare un'età anagrafica diversa, seconda, incrementata ovviamente dall'aspettativa di vita. Esatto, quindi è stata inserita dal 1 gennaio del 2013, ecco perché poi piano piano i requisiti si innalzano. Quindi per l'anno 2018 chi volesse andare in pensione di vecchiaia deve avere minimo 20 anni di contributi versati e aver compiuto 66 anni e 7 mesi di età. Nel 2022 invece questo innalzamento arriverà a 67 anni e 3 mesi. Già dal 2019 è previsto l'innalzamento. A 67 anni, esatto. Però per concludere al 2022 a 67 anni e 3 mesi. Quindi c'è questo innalzamento importante, soprattutto il salto, come dicevi tu prima, è quello che dal 2011 si poteva andare a 60 anni per le donne, adesso invece fino a 66 anni, quindi c'è stato un prolungamento dell'età pensionabile, cioè un allungamento del tempo necessario per andare in pensione di circa 6 anni dal 2011 al 2018, esatto. Quasi 7, insomma, ho detto sono stato corretto in questa affermazione? Sì, sì. Okay. Nel 2011 erano i 60 anni, ad oggi 66,7. Ok, 2018. Quindi diciamo possiamo dire che queste sono le principali novità della legge Fornero? Sì, anche diciamo è stato anche aumentato il requisito relativo alla pensione, che adesso si chiama anticipata e non più anzianità. Quindi è stato prima servivano i 40 anni di contributi prima della riforma. Tema delle quote, cioè un modo di poter accedere al pensionamento con la famosa, non so se vi ricordate, la quota 96, andava fatta proprio una somma tra i contributi, diciamo un'anzianità minima di 35 anni di contributi e un'età anagrafica. Dopo la riforma Fornero invece esiste solamente la possibilità di andare ad oggi, nel 2018, per le donne a 41 anni e 10 mesi di contributi e per gli uomini a 42 anni e 10 mesi. Quindi non c'è, indipendentemente dalla zona grafica che uno possiede al momento del pensionamento. Quindi non c'è più quel famoso cumulo, quella quota 96, ma c'è questa età questi contributi, 40 anni di contributi versati. Bisogna raggiungere una determinata anzianità contributiva. Quindi si chiama, per questo modo di andare in pensione viene definito come pensione anticipata, giusto? Anticipata si intende rispetto all'età. All'età anagrafica, no? Perché altrimenti dovremmo avere aspettare la soglia. I tempi, diciamo, sì, di 66 anni e 7 mesi. Ho visto che stiamo parlando della Fornero, praticamente, la legge Fornero. Questa credo, Marco, di domanda più adatta a te che a Sonia. Ci scrive Bianca di Artena, ha detto: adesso in periodo elettorale si parla molto della legge Fornero. Beh, oddio, non è che si parla solo della legge Fornero, ma molto. Alcuni candidati la vogliono eliminare. È possibile? Questa è la domanda. E poi, tenendo conto appunto del bilancio sempre in deficit dello Stato? Allora, rispondo subito a Bianca dicendo che tendenzialmente tutto può essere modificato, il discorso, o anche più che altro, perché se parliamo della proposta elettorale della Lega di Salvini, che prevede addirittura l'abolizione, come tutte le cose, ne parlava anche prima Sonia, bisogna avere come tutte le proposte un bilanciamento tra entrate ed uscite. L'abolizione della legge Fornero costerebbe circa 280 miliardi di euro, pari a 20 miliardi all'anno dal 2018 al 2023, quindi più di, cioè una manovra finanziaria molto, cioè delle somme molto importanti che possono essere paragonate al bilancio dell'Unione Europea. Quindi per far capire come questa proposta sia quantomeno bizzarra, chiamiamola così, ecco, uno deve avere ben da conto quanto costa poi eseguire queste manovre, perché tutto è bilanciato rispetto alle entrate e uscite dello Stato. Quindi la nostra senza scendere troppo nei particolari, visto che siamo nell'ultima settimana critica, esatto. Ecco, e allora si può modificare, volendo, tutto si può modificare, tutto si infatti può cambiare. La proposta più ragionevole è stata quella di provare a modificare, ma non abolire, come è stato definito da alcuni esponenti politici. Per cui, da questo punto di vista, ti dico, Bianca, non è allo Stato possibile fare una cosa del genere. Questa invece di domanda è quella che già ti ponevo qualche tempo fa, no? La faccio a Sonia. Sonia, alcune persone mi hanno segnalato che sulla loro pensione di gennaio e di febbraio hanno trovato delle detrazioni di 9 euro, 10 euro, 8 euro e non riescono a capire di cosa si tratta. Quelli sono le addizionali regionali e comunali, cioè sono delle imposte sul reddito che poi vanno versate alle regioni e comuni, che iniziano appunto da gennaio, e spesso nel caso in cui le ritenute non sono state effettuate mese per mese in una misura congrua rispetto a quanto dovuto, sulle rate di gennaio e febbraio saranno poi recuperate le eventuali differenze a debito. Quindi spesso vengono anche effettuati dei conguagli IRPEF, quindi è normale che a gennaio e febbraio ci siano questi conguagli, queste trattenute. Ok, questa era la domanda che Stefano mi aveva posto anche inizio anno, e sulla quale allora troviamo una precisa e puntuale definizione da parte tua. quindi questo argomento lo abbiamo chiarito anche agli ascoltatori che ci avevano segnalato questa anomalia durante l'inizio anno sulla pensione. Quindi rispetto alla normativa precedente, quali conseguenze quindi ha portato l'aumento dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva? Beh, innanzitutto allora, le conseguenze a parte diciamo l'innalzamento, no? dei requisiti, e quindi il fatto che ci sia un'attesa ancora più lunga per la cessazione del lavoro, una delle conseguenze più evidenti è sicuramente il difficile accesso alla pensione da parte di coloro che prima del 2011, ormai prossimi al pensionamento, a seguito di accordi individuali o collettivi aziendali, hanno lasciato il lavoro svolto e a causa dell'innalzamento dell'età pensionabile e delle modifiche per l'accesso al trattamento pensionistico si sono trovate poi senza ammortizzatori sociali e senza il diritto a pensione. E parlo dei cosiddetti esodati, non so se avete sentito parlare. Ci spieghi bene questa figura particolare che è nata dalla legge Fornero in poi sostanzialmente? Esatto. Per queste categorie di ex lavoratori, quindi di disoccupati, sono state previste 8 salvaguardie dal governo, l'ultima lo scorso anno, in base alle quali chi si trovava in determinate condizioni poteva accedere al pensionamento con i vecchi requisiti previsti, anche se poi venivano maturati successivamente al 31 dicembre 2011, sempre nel limite di una spesa prevista. Ovviamente le salvaguardie già disposte ancora ad oggi non hanno coperto quel numero di lavoratori che purtroppo sono rimasti senza occupazione per lungo periodo. Speriamo quindi che ci saranno altre salvaguardie, altre leggi che potranno insomma tutelarli. Allora, brevemente Sonia, affronteremo nuovamente il tema delle pensioni, quindi magari anche su focus specifici. Ti chiedo se esistono varie forme di pensionamento che permettono a determinate condizioni di poter anticipare la data di decorrenza della pensione. Sì, allora intanto ci riferiamo ad oggi, e tutti quanti insomma ne sentono parlare, della possibilità dell'APE sociale, e c'è la possibilità anche per dei lavoratori cosiddetti precoci di anticipare insomma la decorrenza pensionistica, e i lavoratori usuranti, che sono quei lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti, per cui è previsto a determinate condizioni di poter accedere prima. Se non ricordo male, sono stati innalzati a 15 le categorie dei lavori cosiddetti usuranti nell'ultima legislatura. Esatto, poi dal 2018 sono stati diciamo riconosciute altre 4 categorie rispetto a quelle che erano già previste, e a seconda delle determinate condizioni possono aver diritto ad andare prima ovviamente in pensione. Quindi questo diciamo è un po' un quadro generale che abbiamo fatto questa mattina sulle pensioni. Abbiamo detto quindi che un discrimine principale rispetto al sistema retributivo e quello contributivo è la data del 31 dicembre 1995, sì, quando è stata introdotta nel nostro ordinamento la cosiddetta legge Dini. Dopodiché un'altra tappa importante è stata la legge 214, il decreto legge 214-2011, conosciuta come legge Fornero, ma chiamata anche il cosiddetto decreto Salva Italia, perché in quel periodo particolare, storico, ovviamente oggi ce ne dimentichiamo, ma in quel periodo insomma c'era uno spread a 585, risanare i conti dello Stato è stato necessario anche procedere con una manovra che, abbiamo visto anche oggi, ha portato ad innalzare l'età pensionabile e quindi ad allungare i tempi per andare in pensione, l'accesso alla pensione, e quindi questo calcolato sulla cosiddetta aspettativa di vita delle persone, per cui al 2018 chi volesse andare in pensione con una pensione di vecchiaia dovrà avere quantomeno 20 anni di contribuzione, oltre ad aver maturato un'età per l'anno corrente di 66 anni e 7 mesi. Poi ovviamente esistono delle deroghe particolari a seconda delle condizioni in cui si possono mantenere anche i vecchi 15 anni di anzianità lavorativa, però quelle sono situazioni che vanno ovviamente no, verificate caso per caso. Ipotizziamo Sonia che funzioni tutto bene, no? Che non ci siano problemi sulle pensioni e cose varie. Una domanda che ti volevo fare, siamo al termine dell'appuntamento, riguarda solamente una, cioè quella che l'INPS adesso manda sul sito della persona, no? Che ha la password, sì, per andare a vedere Ma per quelle povere persone che non possono, tu ne saprai qualcosa perché penso che parecchi verranno al padronato per... Sì, molte persone non si può trovare una cosa più semplice, soprattutto per le persone un po' più anziane che non hanno dimestichezza con il computer, con tutti questi, poi se hanno la linea internet, che bisogna anche certo, vedere anche se ce l'hanno, insomma. L'INPS infatti dispone la richiesta, no, di avere un PIN dispositivo, sì. Oggi siamo chiamato anche SPID, sì. Attraverso il quale ciascuno può comunque verificare il proprio trattamento pensionistico, fare o anche inviare delle richieste, no, specifiche. Sì. Ovviamente spesso da noi si rivolgono, vengono da noi nei nostri uffici perché, come dicevi tu, spesso non hanno internet, non hanno dimestichezza nel computer. Non so come possa essere, diciamo, risolta questa situazione. Noi siamo comunque disponibili ad aiutare tutti quanti, e quindi per tutti quei lavoratori, insomma, che non pensionati, che non possono, diciamo, verificare la loro pensione, diciamo, da soli con la loro PIN, noi siamo ovviamente a disposizione per aiutarli. La domanda diretta: se una persona in pensione è ammalata, non si può muovere e deve venire da voi a chiedervi una cosa, può venire un'altra persona, un figlio, con una delega specifica, ovviamente, assolutamente, e spesso succede questo, infatti, soprattutto per le persone più anziane, vengono i figli, no, generalmente, con la delega, e noi diamo loro tutte quante le informazioni richieste. Quindi, ecco, siete a disposizione delle persone, anche di quelle persone che hanno difficoltà nell'accesso tecnologico, ma anche per informazioni più generali, come abbiamo fatto questa mattina qui dai microfoni di Radio Onda Libera, proprio per spiegare un po' come funziona il meccanismo della pensione. Sicuramente queste sono le domande che tanti ascoltatori tante persone vi pongono quando si recano nei vostri patronati. Oggi l'abbiamo voluto fare in maniera più diffusa dalle frequenze di Radio Onda Libera. Io ti ringrazio, Sonia, per essere stata con noi questa mattina e aver dato queste puntualizzazioni. Ti annuncio che riprenderemo l'argomento con focus specifici su altri temi, e quindi parleremo nuovamente anche di questo aspetto che riguarda tante persone, e quindi capire come possono accedere al loro trattamento pensionistico e anche previdenziale. Da questo punto di vista io ti ringrazio, ci risentiremo tra qualche tempo. Ringrazio gli ascoltatori che ci hanno posto le domande su questo argomento, e noi ci vedremo con la trasmissione Agorà in Onda la prossima settimana, in cui continueremo a parlare di un tema che abbiamo già affrontato, come quello del bullismo e del cyberbullismo. E io quindi non resta che salutarvi e darvi appuntamento appunto alla prossima settimana, e lasciare a Stefano la parola per i saluti conclusivi. Beh, io ti ringrazio per essere stato con noi anche oggi, ringrazio naturalmente Sonia Frega, che è stata in diretta telefonica con noi, e invito tutte quelle persone di cui appunto hanno bisogno, di cui abbiamo parlato poco fa, le persone anziane soprattutto, di recarsi nei centri a vostra completa disposizione, nei patronati praticamente, perché lì avrete tutte le spiegazioni e gli aiuti necessari. Grazie Sonia, ti auguro un buon weekend e alla prossima, ok? Ok. Alla prossima, ciao. Grazie Sonia. Grazie.